Partiamo subito dicendo che la prima trasmissione di Ampio Raggio Web TV ci sarà il 10 febbraio in diretta dal Centro Commerciale Pilastro dalle ore 17.30 alle ore 19. Si tratta della nostra prima trasmissione, quindi avrà un carattere naturalmente anche di festa e inaugurale, ma nello stesso tempo però conterrà comunque i format, diciamo, che abbiamo pensato di realizzare e che poi si ripeteranno anche all'interno delle trasmissioni che verranno successivamente, che abbiamo pensato per ora per il 17 e per il 24 febbraio, sempre dalle ore 17 alle ore 19, e che cercheremo di realizzare sempre a partire da un luogo diverso del rione. La prima trasmissione, quella del 10, come vi ho già detto, sarà trasmessa dal Centro Commerciale Pilastro. La trasmissione del 17 sarà trasmessa dalla Biblioteca Luigi Spina e stiamo poi verificando altri luoghi del Pilastro da cui trasmettere le notizie e i format di cui vi parlerò. Quindi generalmente di mercoledì. Questa televisione, come sapete, è ispirata dalla straordinaria esperienza messa in campo nel territorio del Pilastro da Gabriele Grandi con l'invenzione di Teletorre 19, una televisione che trasmetteva all'interno del condominio di Via Casini 4. Con lui abbiamo attivato moltissime collaborazioni nel corso di questi anni, è venuto a mancare da poco tempo, e in qualche modo questo progetto vuole essere ispirato dalla stessa utopia che ha fatto nascere questo straordinario esempio di comunicazione all'interno di un edificio attraverso la televisione. Per questo abbiamo pensato a alcuni format che poi speriamo di poter ampliare nel corso delle prossime settimane. Per ora i format sono 5. Un format è Pilastro Notizie, che è a cura di Pilastro Bologna, il blog di chi vive al Pilastro. Si tratta di notizie sull'attività, sui servizi e anche su degli approfondimenti o su dei fatti straordinari che riguardano il nostro rione. Poi abbiamo un format al quale tengo molto, che si chiama Vicino Lontano. In qualche modo ha l'obiettivo di parlare di fatti che riguardano la politica internazionale, fatti comunque di grande rilevanza nazionale, pur partendo dalle storie quotidiane delle persone che vivono questo rione. Questo format conterrà anche una parte dedicata alle appartenenze culturali e religiose dei cittadini, a confronto appunto con la storia delle religioni. Un altro format sarà Cartoline da un luogo memorabile, quindi una selezione di fotografie tratte dall'archivio digitale di comunità che la Minarie ha messo insieme negli ultimi 10 anni, raccogliendo le fotografie e i racconti dei cittadini del Pilastro. Altro format è I resti dopo la battaglia, un modo di guardare il teatro. Nasce dal desiderio di parlare della disciplina dalla quale siamo nati, nella quale ci sentiamo fortemente di appartenere, cercando però di evitare in tutti i modi di fare dello streaming, ma al contrario di partire da una documentazione piccola, da oggetti, da frammenti di materie che sono rimasti dopo che il combattimento ha avuto tutta la sua fine, quindi dopo che la rappresentazione è già successa. Per fare questo, di volta in volta interrogheremo degli storici del teatro e i primi 3 episodi, diciamo i primi 3 casi dei resti dopo la battaglia sono stati fatti da Gerardo Guccini, sono stati chiesti a Gerardo Guccini e realizzati insieme a me. Un altro format è Visioni, e si tratta in questo caso di semplici visioni scelte, cioè di materiali video realizzati per il video, scelti da artisti o da curatori che li proporranno all'interno del palinsesto. Quindi questo in generale i format e le intenzioni della televisione. In particolare poi, per quanto riguarda invece la prima trasmissione, cioè quella che andrà in onda il 10 di febbraio, come vi dicevo, dal centro commerciale, noi avremo i saluti istituzionali del presidente del quartiere San Donato San Vitale, Simone Borsari, poi avremo i saluti da Teletorre, ossia la televisione condominiale, come vi dicevo, che trasmetteva e trasmette da via Casini 4, proprio perché appunto siamo nati abbiamo colto da loro l'ispirazione per far nascere questa nuova televisione, un approfondimento sul centro commerciale Pilastro con un'intervista a Francesco Giulianini, che è il gestore dell'agenzia ACI del centro commerciale, ma anche con un intervento molto interessante di Nino Righetti, che è un fondatore del centro commerciale, che ci racconta la genesi del centro commerciale.